ricevuto di qualità di comitato di alberi molte segnalazioni da parte di cittadini, dove correlati di materiale fotografico come quello che ho mandato alle redazioni hanno dimostrato quanto hanno abbattuto in questo caso nell'area prospiciente la via Gobetti di fronte al civico 49. Si tratta di pioppi, alberi sani, e la cosa che mi ha veramente stupito, per la quale è data dal fatto che questi pioppi erano in un'area perimetrale. Se in quell'area avevano in mente, hanno in mente di costruire o di fare non si sa che cosa, perché quello che il comune di Bologna fa è all'oscuro della cittadinanza, non si capisce come mai quegli alberi nel perimetro di quell'area non potevano essere salvati. Quello che lascia molto sgomenti è appunto il fatto che questa amministrazione si professa tanto green, poi abbatte alberi come se non ci fosse un domani. La cosa che amareggia ancora di più è che non viene valutato il valore di un albero adulto. Quando ci dicono che piantano 2000 alberi, questi 2000 alberi che poi vanno a mettere a dimora sono dei manici di scopa, e questi manici di scopa poi non vengono manutenuti, non vengono ammaffiati, eccetera, eccetera. Campano uno o due stagioni, poi si seccano e muoiono. Quindi il bilancio arboreo della città di Bologna non è assolutamente compensato, ma se andiamo avanti così, tra poco Bologna diventa una cattedrale nel deserto, senza verde, e noi abbiamo bisogno di verde, anche perché non dimentichiamo che Bologna è percorso da una rete di strade molto importanti che generano con l'estate isole di calore che vanno a inficiare sulla salute dei cittadini. State raccogliendo molte segnalazioni su appunto abbattimento di alberi. Parlavamo dell'amministrazione, quindi quanto è sentita la questione dell'abbattimento alberi dalla cittadinanza? Nell'arco di un anno e mezzo abbiamo assistito all'abbattimento massivo di 1127 per esattezza al Paleotto. Poi per il passante di mezzo nella via Scandellara sono stati abbattuti migliaia di alberi ad alto fusto, e anche qui parliamo di pioppi, era stata costruita tanti anni fa questa messa a dimora, questa barriera di alberi proprio per contrastare l'inquinamento che veniva dalla tangenziale dall'autostrada, anche quelli fatti fuori per fare il passaggio di mezzo. Poi adesso dobbiamo combattere con il tram, combattere nel senso che per fare posto al tram già gli assaffi hanno abbattuto degli alberi adulti e molto importanti per tutto quello che era la funzione dell'albero. Adesso si stanno allungando in via Marche Emilio Lepido a Borgo Panigale e hanno cominciato ad abbattere i platani. Sono alberi che sono insostituibili, anche perché un albero che ha 60-70 anni, prima di che l'albero, ammesso non concesso che non si secchi prima, vada a ripristinare le funzioni che avevano gli alberi abbattuti, ci vogliono degli anni, anni, anni, siamo parlati di 30-40 anni. Vogliamo ricordare anche la vicenda del Don Bosco. Per fortuna lì i cittadini si sono fatti sentire, perché l'unica polmone verde di quella zona è appunto il parco Don Bosco, e vogliono abbattere, e 7 alberi purtroppo li hanno già abbattuti per far posto di una scuola, quando la scuola esistente è più che sufficienza per le esigenze della comunità locale. Per non parlare poi della collina, abbiamo anche la collina, in via degli Scalini è stato fatto anche lì un disboscamento per far posto di una costruzione. Lì anche la collina, in questi giorni sta piovendo, corre il rischio di svuotare di nuovo. Non si può pensare oggi come oggi di abbattere un albero. Prima di abbattere un albero si deve pensare 100.000 volte, si deve creare dei progetti circolari attorno agli alberi esistenti, non abbattere gli alberi per poi andarci a costruire al suo posto. Avete richiesto all'amministrazione comunale di realizzare appunto un sito dove vengono riportati tutti i progetti che coinvolgono l'abbattimento di alberi. Non abbiamo chiesto noi come comitato, come i comitati che si occupano della tutela degli alberi, perché c'è il comitato Don Bosco, ci sono tanti comitati a Bologna, non c'è soltanto il comitato tutela alberi, c'è Comicolli, ci sono diversi comitati che cercano di difenderli. Per quanto riguarda il discorso del sito, è una proposta che è stata fatta dal consigliere comunale Celli, non l'ha fatto il comitato tutela degli alberi. È già un anno che questa proposta è stata portata in consiglio comunale e votata alla maggioranza da parte dei consiglieri, però non gli hanno più dato seguito. Perché è importante? Perché per la legge della trasparenza l'amministrazione comunale deve mettere a disposizione funzione della cittadinanza quelli che sono i suoi programmi. E per quanto riguarda gli abbattimenti degli alberi, è una cosa che riguarda la salute di tutti i cittadini ed è doveroso che l'amministrazione comunale metta in piedi un sito, come è stato richiesto dai consiglieri comunali, che l'hanno votata a maggioranza su istanza del consigliere comunale Celli e che noi ovviamente appoggiamo.